Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Eccoci. Siamo qua. Qui. 6 maggio oggi. Venerdì. Venerdì. Fai non fare finta che di non leggere che sia venerdì. So, venerdì pomeriggio, sabato, sai che era per me. Però venerdì va bene, fine settimana che comincia. E San Domenico Savio, mamma mia. Per me, nato a Torino, è un santo importante, perché ci insegnavano che San Domenico Savio, con Don Bosco, quello che si metteva in ginocchio, con i ceci sotto le ginocchia. Guarda, che te l'avevo già detto, io ho fatto parte per un periodo degli amici di San Domenico Savio. Sì, e cantavamo San Domenico Savio. E infatti vedi poi come ci si induce. Allora, grande rispetto ovviamente profondo salesiana, quindi tra gli altri santi di oggi, che a me stanno più simpatici di questo del ragazzino che mi veniva indicato da mia madre come modello, perché bisognava mettersi in ginocchio e coi ceci sotto la ginocchia, cosa che, se io immagino dicessi tra un po' a mio figlio, verrei arrestato. Però detto questo, tra gli altri santi di oggi, San Venezio, San Tedberto, San Protogene, potrebbe essere un nome per chiamare un bambino. E oggi mi piace ricordare a tutti che è la giornata internazionale contro le diete. Quindi, buffone! È una di quelle giornate, insomma, contro le diete. Allora, io lo so che gli italiani qui saranno lì a dire Boeri, Boeri. Boeri ha parlato ancora sui vitalizi e ha fatto notare che spendiamo 193 milioni di euro l'anno per i vitalizi. Se si applicasse il retributivo anche ai il contributivo anche ai parlamentari, risparmiamo il 40%. E sopra i 3.500, quindi, cari parlamentari, invece di berciare come galline dicendo che vi toccano la cosa. Berciare come galline? Sì, certo, sopra i 3.500 euro, sì. Se solo in quello ci limitassimo a credere di poter applicare le regole che si applicano noi tutti, poveri miserabili, sì, risparmieremo 760 milioni di eurini in 10 anni. No, e guarda che anche per quelle delle regioni, vitalizie delle regioni, che tante volte si dice sono stati tutti riformati, si potrebbero risparmiare anche lì tanti bei soldini, cioè 1,45 miliardi di euro in 10 anni. Se sommiamo le due cose sono già 2 miliardi e 2. Però chiamateci su questo, e io so già cosa potranno dire i nostri ascoltatori. Boeri fa bene, chiamateci all'800 24 00 24. Però, caro Oscar, voglio fare l'avvocato del diavolo. Sì. Perché quando siamo passati Esatto, voglio fare il diavolo vero. Sì. Quando siamo passati tutti dal contributivo al retributivo, non è che l'abbiamo fatto da quel giorno in avanti, non retroattivamente, no? Cioè, quelli che adesso prendono il contributivo continueranno a prenderlo. Allora io dico, per una equità vera, dico, va bene, mi sta bene, facciamolo per i vitalizi, ma facciamolo anche per tutti gli italiani! Anche retroattivamente, anche voi pensionati che prendete il contributivo, passate al retributivo, ricalcoliamolo. Per un'equità totale. Per un'equità totale. E in che cosa pensi che questo non sia perché giusto? Perché molti diranno, giusto, i parlamentari passino al retributivo, però magari ce lo dicono, ma no, però la mia pensione contributiva non toccatemela. Ah, dunque. Per un'equità totale, tutti. Ma ripeto, allora, con la riforma Fornero, ricordiamolo a tutti coloro che sostenessero questo argomento, che cosa è avvenuto? È avvenuto che, rispetto alla decisione che tu ricordavi, quella con la riforma Dini, cioè d'ora in poi, è stato esteso invece il contributivo pro rata. Quindi, come vedi, innanzitutto non è vero che l'argomento dei parlamentari solo da una certa data in poi dalle riforme, perché con i privati si è fatto diversamente. Dopodiché, anche per i privati, l'INPS, e malgrado il prorata che è stato messo con la riforma Fornero, l'INPS ha indicato tutti tutte le gestioni previdenziali private che hanno dei bei regalini rispetto a ciò che hanno versato come contributi, e sui quali io sono completamente d'accordo. Anche in quel caso intervenire con lo stesso criterio, non in generale su tutto l'assegno, ma da una soglia, una certa soglia in poi. Cominciamo dai preti, per esempio, che hanno delle pensioni pari a 3 euro per uno. Poi dopo dici versato. Che te accanisci con la Chiesa, proprio dai preti devi iniziare. No, ma tanto per dire, voglio dire, i commercianti del 2015 hanno un multiplo rispetto al versato molto elevato, e non so cosa vuol dire, cioè, 7 volte il versato ci sono a volte nelle pensioni di questo tipo. I dirigenti dell'INPDAI, che anche loro hanno moltiplicatori sconsiderati. Quindi da questo punto di vista io, come vedi, sono d'accordo, ma sono d'accordo non per dire non lo facciamo, sono d'accordo per facciamolo dire bisogna tutti. Farlo ma invece io sono sicuro che molti che ci chiameranno diranno va bene, facciamolo per i parlamentari, ma la mia pensione maturata, diritto acquisito, non si va a toccare, Ho capito, ma questa è la tesi di chi dice che ha dato, che ha avuto, scordiamoci, ho passato, il deficit lo pagate voi, cari contribuenti. Perché il problema è che la differenza ai signori parlamentari e consiglieri regionali, stiamo parlando, ripeto, di chi incassa i vitalizi precedenti alle riforme che poi sono avvenute, però lo paghiamo noi, è questo che sfugge a tutti. E perché dobbiamo pagarlo a queste persone che hanno assegni di queste proporzioni così lontane dal reddito medio dei cittadini italiani? C'è anche un'altra questione che è più tecnica, che Boeri parla e dice una cosa anche condivisibile. Peccato che lui non possa farci davvero proprio nulla, perché l'abbiamo detto mille volte. Posso levare il tema. Ribadiamolo che le pensioni ai pensionati, ai VIE, agli ex parlamentari vengono erogate dalla Camera. E sono alla Camera e al Senato che devono decidere se vogliono, con l'autonomia, la famosa autodichia che hanno, eccetera, eccetera. Però è peccato, loro non lo faranno mai. È ovvio che non lo faranno mai. Già per ottenere la riforma per il futuro si è dovuto passare anni e anni a ricordargliela. Sì. Dopodiché insorgono immediatamente, come anche oggi sono riportati sui giornali, rappresentanti del circolo io voglio i miei soldi e voi non me li toccate, che dicono che è illegittimo di qua, di là. Ma cosa è illegittimo? Vabbè, Daniele ci chiama da Roma. Buongiorno, Daniele. Buongiorno. E io stavo dalla trasmissione, chiaramente, come sempre, sconsolato. Il discorso è che questi politici hanno il metodo del torero. Ti fanno vedere la muleta, mentre l'obiettivo vero è le loro maledette pensioni. Il discorso che ci sono i vitalizi, se noi facciamo un rapido calcolo tra vitalizi e pensioni che loro si passano anche senza, diciamo, come si chiama lì, con reversibilità, si inventano di tutto. Facciamoci un calcolo di quanti sono stati i governi, quanta gente è stata lì soltanto tra senatori e deputati, che pensioni, fatevi un calcolo, vi renderete conto che è una cifra esorbitante che si passano da padre in figlio, e se non sbaglio anche le stesse gli stessi vitalizi utilizzano questo sistema. Quindi in realtà inventassero quello che gli pare, ma questi se li devono togliere questi soldi, devono fare i sacrifici, tra parentesi, per modo di dire, come tutte le altre persone. La gente si deve svegliare, se possibile. Io non lo so, è scandaloso. Ci abbiamo una nazione di addormentati. Noi siamo il toro e tutti quanti con ste picadiri e questi affari qui ci insomma, sti picadores che ogni tanto cambiano, e noi stiamo lì come fresconi senza renderci conto che in realtà il nostro futuro è morti con le palle tagliate. Viva l'ottimismo. Se si è uomini. Grazie, Daniele. No, sono inteso amaro, che le donne sono proprio. Sì, vabbè, se l'editoriale, soprattutto finale, è stato abbastanza chiaro e comprensibile. Proprio una boccata di ottimismo. Sì. La ringraziamo, caro Daniele. Ma c'è un altro Daniele da Roma? Sembra una barzelletta, ma è un altro Daniele e sempre da Roma. Buongiorno, Daniele. Buongiorno, assolutamente sì, risparmiamo sui nomi. Eccoci. E utilizziamo ottimo. Uno per te. Allora, io sì, volevo fare una domanda e un'affermazione. Sulla legge Fornero, io sono un esperto di previdenza, era previsto un meccanismo di solidarietà intergenerazionale e intragenerazionale, cioè nel senso di poter togliere a quelle persone che avevano preso con il sistema molto privilegiato una percentuale pensionistica, così come hanno fatto alcune casse di previdenza private, per dare più sovvenzioni ai futuri pensionati e ai giovani che stanno lavorando. Come sempre, le cose migliori delle leggi non vengono mai applicate oppure sono sempre inapplicabili. Perché? Perché, caro Oscar? Questa è una domanda alla quale dice: perché se un politico italiano tocca mai quello che ritiene si traduca poi in voti che se ne vanno alle elezioni? Non è che ci vuole molto per capire che purtroppo è stata di questo. Brutalmente, diciamo. Ma brutalmente, certamente. Oggi, scusa, di tutto questo, io vi invito a riflettere. Oggi la Camusso interviene su alcuni giornali italiani con interviste dicendo che l'APE non va bene, perché bisogna. Lei, la sua proposta è tornare tutti in pensione a 62 anni senza alcun aggravio rispetto alla legge Fornero. Io ricordo a tutti che stiamo parlando a questo punto di 4 anni e mezzo di modifica rispetto al tetto della legge Fornero vigente quest'anno per le pensioni di vecchiaia. Ecco, e alla domanda, scusate, ma il deficit, questo significa miliardi e miliardi di deficit? Non è vero. Non è vero. Come vedete, perché dice la Camusso che questa APE, a parte la battuta, speriamo che non si trasformi in una vespa dolorosa per i pensionati, che il taglio permanente della pensione e l'assegno anticipato sotto forma di prestito sono un regalo a banche e assicurazioni. Ma queste sono sciocchezze gigantesche. Il problema è che sul tema pensionistico ci si batte, sindacati e partiti, solo per mandare in pensione chi un lavoro ce l'ha già. E in questo loro dicono: deficit, bene, giusto, non mi importa, io voglio la gente che ha un lavoro vada prima in pensione. Dopodiché, raccontando che questo significa posti di lavoro per i giovani, non è vero, ma con totale indifferenza verso il fatto che poi significa che noi tutti paghiamo in più l'aggravio dal fisco, non dai contributi, perché i contributi non bastano a pagare queste robe. Sì, tra l'altro dice anche che l'anno prossimo, dice il governo ci ignora, l'anno prossimo faremo un referendum per ripristinare l'articolo 18. Cioè, allegria. Ti rallegra il venerdì questa sì, cosa. Sì, no, ma Dio, cioè, per carità di Dio. No, io invece, Oscar, non ho capito una cosa, perché sui giornali, su tutti i giornali, il Messaggero, il Fatto Quotidiano, il Repubblica, dice la Merkel e Renzi sono incontrati e c'è un accordo a metà, cioè tutti d'accordo a dire Vienna sbaglia, l'Austria sbaglia, eccetera, però non c'è accordo sui soldi, sugli eurobond, eccetera. Non è passata nemmeno per opposizione lei, cioè, 250.000 no, euro. No, ma dire. Leggo sul Corriere della Sera, pagina 2, Maria Teresa Meli, il classico retroscena Renzi ai suoi, è andata come meglio non poteva andare. La Merkel è d'accordo anche sul dare i soldi all'Africa. E allora ti chiedi, ma come? Cioè, sugli altri giornali c'era raccontato, insomma, che l'accordo c'è sulla, diciamo, sinergia politica, ma economicamente no. Quindi se uno traduce dovranno trovare i soldi per questi interventi, a cominciare da quello, vediamo, Niger, un miliardo, eccetera. No? Attraverso i fondi della cooperazione. Attraverso i fondi della cooperazione praticamente non si fa se non un centesimo. Ma se siamo tra gli stati, noi ma anche altri, che diamo pochissimo alla cooperazione internazionale. Esatto. Quindi, come vedi, hai toccato con mano che un conto sono gli annunci per dire che si va d'accordo e poi in concreto non se ne fa nulla, che è il motivo per il quale l'Europa ha perso credibilità. E più noi dell'informazione continuiamo a nostra volta a dire tutto risolto, ottimo, ottimi interventi in grandi paesi, e non cogliamo il punto che adesso, e tu hai appena stornato, scusate, ci fate capire bene, questi soldi ci sono, se non ci sono non avete nessun accordo e state recitando, punto. Giuseppe ci chiama da Napoli, buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Senta, io volevo chiarire una cosa con voi. Siccome voi siete condottieri di questo passaggio totalizzante al contributivo, io per esempio sono in pensione con il retributivo. Posso anche essere d'accordo di passare al contributivo, però mi dovete dare l'opzione, voglio ritornare a lavorare a questo punto. Lei che cosa mi risponde poi? Vuole tornare a lavorare. Mi spiega ma su perché? Che base esatto. È convinto perché di poter questo scambio? Mi spiega su che base è convinto di poter avere diritto a questo tipo di cosa? Così. Cioè perché su che base pensa di avere diritto di avere io vado in pensione perché c'è una regola, il retributivo. Sì. Mi faccio i miei conti e me ne vado in pensione. Sì. Dopodiché viene lei e dice: "Non vale più sta regola, vale il contributivo". Bene. Allora non mi conviene, torno a lavorare. Però se lei mi dice guardi, se lei trova un lavoro nel mio mondo ideale e rinuncia per il momento al beneficio dell'assegno e si accomoda e fa bene. Ma poi io faccio si Giuseppe, figuri. Faccio una provocazione, non voglio paragonare i lauti vitalizi di chi stato magari 5 anni in Parlamento e c'ha 5-6 mila euro di pensione. Però Giuseppe, allora perché dovremmo applicarlo ai parlamentari, per paradosso? Se... No, ai parlamentari non vorremmo mai discriminare. E perché è giusto a loro? Ma scusi, ma dopo 5 anni è evidente. Ma se io ho lavorato 35 anni e c'ho un retributivo, mi deve dire perché io devo passare al contributivo quando quelle regole le spiego io perché le spiego perché no, guardi, questa idea è la solita idea che ci sia una specie di patto, cioè ciascuno di noi e lo Stato che è intangibile. Allora io non so chi ve lo abbia messo in testa, nell'ordinamento italiano come tutti gli altri questa idea è infondata, non c'è questo patto intangibile, è chiaro? Cioè ci sono tonnellate di sentenze della Corte Costituzionale che testimoniano come per esigenze di finanza pubblica il legislatore, perché di questo si tratta, mica un tiranno che cambia idea se si alza la mattina, il legislatore può benissimo modificare i fondamenti, i saldi, i montanti, i meccanismi di calcolo anche delle pensioni, e la Corte interviene, più volte intervenuta, solo quando lo fa dimenticando i presupposti fondamentali di equità e giustizia, cioè non può farlo per alcuni sì, per altri sì. No, ci vuole una proporzione. Lo Stato può farlo perché quando altrimenti va in deficit eccessivo e a debito, che fa? Per onorare il patto, secondo voi, intangibile con voi? Dice no, io vado a ramengo. Non funziona così. Il nostro ascoltatore dice io ho siglato un patto e non ha siglato nessun patto. Insomma, l'hanno siglato anche coloro che sono visti nottetempo cambiare dal retributivo al contributivo con la riforma Fornero e che l'avevano firmato lavorare quel patto. anni più sono arrivati capito. Magari a 5 invece, anni dal potere godere di quel esatto. patto che lei ha di firmato questo, 30 anni fa e quelli sono rimasti. A quelli del retributivo frega niente. Come vedete non c'è un patto intangibile, non c'è. Allora, però, Oscar, ci sono ascoltatori e ripartiamo anche da loro, ma dopo la pubblicità vogliamo anche un po'... Ripeto, io poi ricordo, con la Fornero, guardate, che per coloro che si aspettavano a partire dal 2012 di rientrare totalmente nel sistema retributivo, abbiamo applicato il contributivo pro rata, quindi cari parlamentari, per favore non veniteci a dire come gli altri, anche gli altri se lo sono visti arrivare per decreto questo, non dimentichiamolo, perché si tratta di centinaia di migliaia di italiani. Continuando su questo tema, però, dobbiamo parlare, tra poco abbiamo deciso di parlare, di quello che è successo a Caivano. È una terribile storia di cronaca che tutti forse conoscete, l'uccisione 2 anni fa di una bambina, si è ipotizzato, è abbastanza accertato che fosse stata violentata e poi uccisa da una persona che è accusata di questo ed è in carcere. È una storia che riguarda anche l'omertà, insomma le nostre anche paure più recondite quando si tratta di bambini. Perché a parlare sono stati bambini, mentre certo. pare tutti gli anziani e gli adulti del palazzo spingessero i bambini a dire fatevi esatto. fatti vostri. Ma anche accuse a un certo modo, anche qualcuno dice di fare informazione, anche qua a GR24 prima ho sentito il palazzo degli orrori, qualcuno si ribella di fronte a dire ma no, perché identificarti dovete mettere un palazzo questi timbri. Con gli orrori. Comunque ne parliamo tra poco, state con noi. Allora, caro Oscar, 8:41 minuti, dobbiamo parlare di un argomento molto molto tenso. Intenso, sì. Sì, però... E attenzione anche noi tutti per primi a graduare le parole, come dicevamo prima. Certo. Vogliamo parlare di quello che è successo a Caivano e lo sapete se avete letto i giornali, avete visto trasmissioni televisive, l'uccisione della piccola Fortuna. 6 anni, uccisa a Caivano 2 anni fa e ora c'è in carcere una persona con l'accusa di averla violentata e uccisa. Però si è tramutato tutto anche un sorta di processo, se vuoi, a un ambiente, a non dico a un'intera città, ma a un palazzo. Sì, di diffuso sistema omertoso. Tanto che per esempio Don Patriciello, che è il parroco di quella parrocchia e di quelle persone, ha scritto proprio su Avvenire a dire basta dire insomma che è il palazzo degli orrori, il palazzo degli orchi, lo stabile incriminato, insomma, no alle generalizzazioni. Ne vogliamo parlare con il sindaco di Caivano, Simone Monopoli. Buongiorno sindaco e benvenuto, grazie. Buongiorno, per buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli amici ascoltatori. Saluto anche Alessandro Meluzzi, psichiatra, buongiorno professor buongiorno, Meluzzi, eccoci. Buongiorno a voi. Sindaco, è una comunità che si sente, come dire, assediata oppure è giusto anche raccontare se ci sono spaccati di omertà, se ci sono spaccati di complicità? Io credo che innanzitutto sia giusto essere in sintonia col discorso di Don Patriciello, nel senso che Caivano, è chiaro, non bisogna mai fare di tutta l'erba un fascio, per cui la comunità caivanese non può essere assimilata a dei fenomeni che comunque hanno delle radici profonde. Caivano e il Parco Verde non è la città e il Parco Nero, non è la città degli orchi. È chiaro però che questa comunità è una comunità che si sente trascurata. Se lei pensa che Parco Verde è stato costruito in seguito alla legge 219-81, la legge sul terremoto, è stato costruito praticamente un ghetto, una riserva indiana, che impedisce proprio fisicamente l'interazione tra la comunità di Caivano e quella del Parco Verde, l'integrazione sociale. Ci sono delle criticità incredibili, come lo STIR, con milioni e milioni di ecoballe che fanno bella mostra su delle piramidi. Sindaco, ci perdoni, non ci faccia l'elenco del degrado, forse dell'abbandono che c'è in tante parti d'Italia, che però non devono portare ci sono in tante parti d'Italia, ma a Caivano sono concentrate sul nostro territorio. Sul nostro territorio esiste un campo nomadi, che è l'unico campo autorizzato dalla provincia. Ho capito, ma stiamo parlando di un'altra cosa. Cioè, nel senso... voglio dire che, allora... Se vogliamo, se lei ci vuole parlare del fatto che le persone non hanno lavoro, che non hanno, certo, va bene. Certo. Però bisogna fare secondo me questa diciamo purtroppo sfortunata avventura della piccola fortuna deve secondo me stimolarci a cercare di capire che Caivano è un'emergenza sociale, un'emergenza nazionale. Abbiamo bisogno, se vogliamo fare un discorso serio per riscattare questa comunità, abbiamo bisogno di risorse. Queste risorse, io voglio fare Sindaco, il tempo prolungato a scuola, sì. Voglio riaprire il teatro Caivano Arte, ma per fare questo abbiamo bisogno di risorse importanti. Non lo so, va bene, economiche. Allora no, Sindaco, è chiaro, cioè, ci fa anche un po' una rimostranza del fatto, insomma, Oscar faceva il gesto, come dire, servono soldi, e questo vale però per tutti i sindaci. Non so, Meluzzi, ci aiuta a capire da psichiatra se possiamo fare il salto dalle rimostranze del sindaco a quello che è successo. Ho un punto di vista, capisco le ragioni del sindaco, ma un punto di vista radicalmente diverso, nel senso che io credo che il problema della pedofilia e dell'omertà della pedofilia sia una questione che attraversa longitudinalmente ceti, classi, strati sociali, tra l'altro anche con degli aspetti sorprendenti. Ci sono degli ambienti assolutamente privilegiati in cui comportamenti pedofilici e pedofilia sono occultati con la stessa omertà di quel condominio. Ci sono ambienti degradati e poveri come certi campi profughi dove la pedofilia non esiste perché esistono altri tipi di vigilanza culturale, psicologica e emozionale. Quindi il problema dell'omertà rispetto alla pedofilia purtroppo non è una questione di apertura di teatri, non è una questione di raccordi urbanistici, non è una questione neanche tutto sommato di mettere un commissariato di polizia o un assistente sociale in ogni scala, è cosa diversa. Perché la pedofilia è un comportamento che si trasmette intergenerazionalmente, nel senso che io lo ricordo sempre, questa è una statistica scientifica internazionale, a seconda delle casistiche l'80-85% dei pedofili e degli sex offender sono stati dei minori abusati. Questo è impressionante. Questo è impressionante. Quando erano bambini. Quindi quello della pedofilia è un virus che si trasmette intergenerazionalmente. Ma come si fa ad interrompere questa spirale? Può riguardare ambienti borghesi come i college inglesi o situazioni anche di degrado sociale come quella del condominio di Parco Verde. È una questione molto più complessa di come la fa il sindaco. Ed è una questione rispetto alla quale bisogna anche tenere conto di un dato che purtroppo non è mio, per fortuna, ma del garante dell'infanzia per la Campania, che recentemente ha comunicato che un'indagine trasversale fatta in Campania, probabilmente in altre regioni del nord e del sud non sarebbe stata così diversa, ci dice che c'è un'incidenza immensamente più alta di quello che noi pensiamo di abusi infantili. D'altra parte, se noi ci pensiamo un attimo, fate solo una relazione. Se voi pensate che Sigmund Freud ha fissato come trauma primario nella Vienna della fine dell'Ottocento il tentativo di abuso o di seduzione sessuale di un adulto verso un bambino o un adolescente, è chiaro che ci eravamo di fronte ad una questione molto grave e molto più ampia di quello che non crediamo. Sì, sì. Sì. Quindi, qua già anche Oscar storceva un po' il naso sulle parole del sindaco che è con noi, che per carità, cioè, le rivendicazioni sono legittime. La gravità di tutti i problemi sociali di Caivano, solo che noi siamo interessati a una questione in particolare. Non è che mi può dire coi soldi risolvo, perché coi soldi possiamo dare il lavoro a Caivano. Noi non affrontiamo il tema, secondo me è messo a fuoco da Cioè, la questione di fondo è quanto è diffusa ancora la prassi, degli abusi nella famiglia italiana, uno, due, perché scatta il silenzio solidale, cioè perché alle bambine di Caivano, gli adulti dicevano state zitti, questo diciamo, è un problema, e secondo me ha anche ragione Maluzzi, dice non crediamo di inventarci in 448 come si fa a risolvere un problema di questo tipo, però bisogna affrontarlo per quello che è, cioè significa la prassi degli abusi sessuali sui minori, sui bambini nelle famiglie italiane è ancora pazzescamente diffusa. Tra l'altro professor Maluzzi, ieri è venuta a fare la notizia di un pedofilo recidivo che dopo aver scontato il carcere da detenuto modello ha nuovamente abusato, è stato arrestato, e qui si parla, come sa, di castrazione chimica, c'è chi dice è una soluzione, è chiaro che non c'è una risposta sì o no, ma può essere davvero una soluzione la castrazione? Ma vedete, il problema ha delle coloriture diverse, nel senso che c'è il sex offender reiterato, coatto, ripetuto eccetera, che diventa un criminale un po' come il serial killer, quindi uno come questo del carcere che va in giro adescando e abusando minori. Purtroppo il problema ha tante sfaccettature. È quello del nonno che tiene in maniera sospetta sulle ginocchia la nipotina. Questo è il tipo di abuso che accade purtroppo nelle famiglie italiane. E non è meno grave, ma va affrontato in una maniera radicalmente diversa. Allora io su questo vorrei dire una cosa molto politicamente scorretta. E mi rendo conto che mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Purtroppo il tentativo di seduzione di adulti verso i bambini è una piaga mentale diffusa, perché è un comportamento di natura animalesca. Cioè non mi sentirei di dare una definizione diversa, ma se voi guardate nel mondo animale, dai nostri parenti più simili, le scimmie antropomorfe, fino agli altri mammiferi, un comportamento di natura semipedofilica è un comportamento animale. Allora questo vuol dire che per contrastare un comportamento animale ci vuole una civiltà umana che lo faccia diventare un tabù. Ed è quello che, grazie a Dio, nelle nostre civiltà, almeno nella cultura giudaico-cristiana, è prevalso, no? Nelle religioni del libro. Non è così in altre culture, per esempio. Allora, come facciamo noi a riaffermare le ragioni di questo tabù? Questo è il vero problema. Che faccia sentire una merda un nonno che tenta di accarezzare in maniera ambigua il sedere alla sua nipote, che faccia sentire un criminale uno che manipola una bambina sulla scala di un condominio, è un problema psicologico, culturale, antropologico. Profondo, non certo risolvibile. Guardi, mettendo una linea in più di Trump. Ma no, certo, ci chiama Francesco da Napoli, mi dicono dalla redazione come ascoltatore, che però conosce bene quel palazzo, ecco, diciamo sì, anche noi. Francesco, è così? Buongiorno. Buongiorno, salve. Sì. Bene è un parolone, insomma, sì, è una cosa molto grossa, perché lì dentro non ci entra nessuno, insomma, vi porto un'esperienza di lavoro in quel territorio, sono d'accordo con psichiatra, la problematica è quella, ma non posso non essere anche d'accordo in parte col sindaco, perché è un quartiere, e non si offenda nessuno, abbandonato, è una zona in quello senso, e vi ringrazio per aver toccato l'argomento. L'omertà lì dentro, i servizi sociali ci devono entrare con polizia e carabinieri. Mi raccomando al sindaco di vigilare sui suoi servizi sociali, perché da quello che sappiamo non ne hanno di tanti assistenti sociali o di operatori sociali o di servizi che lì dentro dovrebbero vigilare, così come quartieri limitrofi, quali le salicelle, le famose salicelle di Afragola. Quindi c'è bisogno, dal nostro punto di vista, io sono un assistente sociale, di tecnici, e ripeto, sono d'accordo con lo psichiatra, che da quelle parti, con un piano integrato, con un piano serio, possano capire, però possano operare. Vogliamo sentire se il sindaco, però non ci ridica, appunto, sì, risorse servono, questo l'abbiamo capito. Questo è il leitmotiv, purtroppo, giusto. Sì, però quell'umertà, cioè è vero il racconto di questo. I servizi sociali, bisogna potenziare i servizi sociali. Ma è vero che devono entrare con i carabinieri, con la polizia? Ma certo, questo è vero, perché purtroppo c'è una realtà pesante, ma questi bambini fanno parte di famiglie. Lei deve sapere che all'interno del Parco Verde c'è una percentuale di disoccupazione che raggiunge l'80-90%. Allora, il discorso che facevo io era un discorso che aveva una visione molto più organica rispetto a considerare il fatto isolato. È chiaro che se noi creiamo occupazione, sottraiamo tutti questi individui a traffici illeciti di tutte le nature possibili. Mi scusi, signor sindaco, posso fare una domanda? Certo, perché certo. Lo faccio a voce bassa. Voglio dire solo questo. Chiaro. Il 24 marzo noi abbiamo fatto una marcia della legalità e abbiamo detto che denunciare è importante. Noi no, ma questo certo, però aspetti la domanda di Oscar Giannino. Voce anche perché bassissima, siamo perché il tema è delicato. Lei è convinto che si diventa pedofili a seconda che si lavori o meno? Io temo di no. Temo di no. Lo dico con gran sincerità. Quando ero piccolo e frequentavo ambienti sportivi, giovanili, eccetera, eccetera, c'è chi ha tentato di mettermi le mani addosso. E quando hanno tentato di mettermi le mani addosso, non c'entrava la povertà. Non era un povero, tanto per dirne uno. Allora, io credo che ci sia una questione culturale che ha a che vedere con pezzi della nostra vita non dichiarata e dell'influenza che, come diceva Meluzzi, antiche cose che facciamo finta di credere che con la cultura, la civiltà e l'informazione abbiamo estirpato nella nostra prassi familiare italiana. Non è così, e mi credo, signor sindaco, non dipende dai redditi. Tutto quello che dite voi è sacrosanto, anch'io mi batto per la legalità e i livelli di reddito maggiore, di occupazione e di investimenti nel sud, e nel sud, a Caivano, dove volete voi e dove bisogna farlo, ma non c'entra con questo. È un'altra questione. Noi però ci dobbiamo fermare qui, ringraziando il sindaco di Caivano Simone Monopoli e il professor Alessandro Meluzzi. Caro Oscar, insomma, però la radio insegna anche che si può trattare, si può parlare di qualsiasi tema. E come vede, ne abbiamo ragionato stando coi toni, secondo me, corretti, giusti, con i punti di vista diversi che ci sono. Però il punto di vista Meluzzi è quello che fa più male, perché va, obbliga tutti a mettersi di fronte allo specchio a questi problemi della violenza in famiglia. E certo, e non pensare che sia una cosa che riguarda sempre altri o che riguardi, non so, ceti sociali bassi o che riguardi zone di degrado, eccetera. Anzi, a volte proprio non è così. Allora, ci fermiamo. Peter Pescapè in regia, Elisabetta Fusconi in redazione insieme a Lorenzo Nespoli. Allora, come sempre, grazie. Oscar, oggi per pomeriggio. Chi vuole oggi pomeriggio, domani mattina. Siamo sempre qua. Mattina, siamo sempre qua. È venerdì, si sa. Già. Va bene, dai. A domani per te e anche oggi e a lunedì per tutti noi.